Buonasera e bentornata al solito appuntamento con Meridiano Meteo. Verremo assieme previsione lo tempo per la giornata che rimane in coppa a sta regione. Cielo nuvoloso con poca precipitazione, temperature comprese tra i 6 e i 10 gradi, vento forte ma mosso. Per questa edizione meteo è tutto, vi auguro buon proseguimento di serata in coppa a ste frequenze.